un anno e mezzo di percorso già fermato, gare per le prime forniture da 1,8 miliardi di dollari e decine di aziende, circa 400 che vedono dissiparsi tra le dita il contratto. Insomma, due storie purtroppo italiane che Alberto Rioli nel suo editoriale di prima pagina riassume così: le vittorie di Pirro, del partito del non sviluppo, dall'IKEA di Pisa alla centrale di Porto Tolle. Questo è il commento di Alberto Rioli, dicendo: ecco il motivo per cui in Germania crescono a una crescita molto molto più ampia rispetto e più rapida rispetto all'Italia, perché non si bloccano tutti questi progetti. Oh, che dire, siamo in rapida chiusura. Voglio segnalare che cosa? Beh, Schwarzenegger, che si è separato dalla moglie dopo 25 anni, da Maria Shriver, un matrimonio con 5 figli, eccetera. Sapete perché Schwarzenegger si è separato dalla moglie? Perché Schwarzi confessa: 10 anni fa ho avuto un figlio dalla nostra cameriera. Una vicenda che ha terremotato letteralmente il matrimonio di Terminator. La missione all'origine della rottura con Maria ha fatto un comunicato dicendo: capisco, merito i sentimenti di delusione e rabbia tra i miei amici, la mia famiglia, non ci sono scuse, mi assumo la piena responsabilità per il dolore che ho causato, chiedo perdono a Maria, la moglie, ai figli, alla famiglia, sono davvero dispiaciuto. Questa cameriera conferma tutto, dice: 10 anni fa ho ricevuto liquidazione, TFR, sono andato via volontariamente, ho mantenuto buoni rapporti con entrambi, però certo è tutto vero. È incredibile, insomma, ora i giornali americani di gossip si chiedono: ma come ha fatto Maria Shriver a non accorgersi che Schwarzenegger andava a letto con la cameriera e ci ha fatto pure un figlio? Insomma, sta di fatto che il motivo della separazione è questo. 24 mattino. L'intervista. Alle 8:22 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Voglio salutare per la nostra intervista Don Fortunato di Noto. Buongiorno Don Fortunato. Buongiorno a voi. Buongiorno. Sacerdote, presidente dell'associazione Meter, si occupa di contrastare la pedofilia da anni. Senta Don Fortunato, la Chiesa, è inutile negarlo, è ancora nell'occhio del ciclone per la vicenda di questo parroco di Genova accusato di pedofilia, con intercettazioni davvero infami pubblicate sui giornali. Intristisce molto questa vicenda . E del resto soprattutto ci rivolgiamo a chi è stato coinvolto in questo turpe girone infernale. Noi speriamo sempre che la magistratura faccia ulteriore chiarezza, si assume le responsabilità e con un giusto processo venga condannato, come può essere per lui, per questa persona che ha coinvolto dei minori, ma anche per tutti coloro che si macchiano di crimini contro l'infanzia. Questo sì, Don Fortunato, però oggi non avrà avuto modo di leggere i giornali, ma Repubblica con Francesco Merlo fa un durissimo attacco dal titolo, il commento è: l'avvento del prete bestia, figlio della sessuofobia della Chiesa, e parla di una situazione che tutti sapevano tranne parroci, vescovi, cardinali, che ora prendono subito le distanze. Insomma, dice: non c'è mai stato un prete pedofilo denunciato dalla Chiesa stessa. Beh, questo è tutto da verificare. Devo essere onesto, il problema non è, non credo che dipenda molto dal fatto se i vescovi o la Chiesa in sé deve in un certo qual senso a suo tempo denunciare. Cioè, il problema è che oggi la Chiesa ha fatto una svolta. Cioè, io dovrei vedere e pensare oggi l'importanza di questo impegno che la Chiesa si è assunta in maniera molto chiara, molto decisa, molto, molto, molto forte. Ora qui devo essere onesto, io ho denunciato dei preti, quindi non è affatto vero che la Chiesa non denuncia dei sacerdoti che si macchiano di queste cose, perché al di là di essere sacerdoti e cittadini, e soprattutto ognuno poi si assume le proprie responsabilità. Se la Chiesa ha assunto questo atteggiamento nuovo, totalmente nuovo, che sta facendo, credo, anche scuola un po' per tutti, di trasparenza, di determinazione, ecco, si volta pagina, si inizia a lavorare bene. Ci dispiace se alcuni vescovi per incapacità, per come dire non volontà abbiano coperto alcuni sacerdoti, anche loro di fronte a Dio, nella loro coscienza ne risponderanno, di fronte agli uomini ne risponderanno. Ma perché molti si chiedono questo, Don Fortunato, perché ci sia bisogno da parte della Chiesa di fare una svolta, nel senso di dire che è un crimine la pedofilia, cari vescovi, denunciate pubblicamente queste cose, cioè non ci sarebbe neanche bisogno di dirlo, no? Guardi signor Ramen, io ho 20 anni che mi occupo di pedofilia, io le posso testimoniare che qui non è un problema di dire ai vescovi denunciate chi si è macchiato di pedofilia, qui è un problema della società in genere. Veda che tante denunce non vengono assolutamente fatte, migliaia e migliaia di bambini sono coinvolti nei mercati, nei traffici illeciti di sfruttamento sessuale, di pedofilia, di pedopornografia. Qui è un problema della società intera, cioè al di là che si ascrive giustamente quello che stiamo noi discutendo stamattina ad alcuni vescovi, ma io conosco altri vescovi, altri cardinali che hanno fatto un lavoro forte, duro, durissimo, quindi ognuno, io sempre dico, si assuma le proprie responsabilità, ma anche la società è in questo caso a volte assente. Se noi dovessimo pensare, ad esempio, solo un esempio banalissimo, che noi stiamo denunciando un social network importantissimo al mondo e i service provider, sai cosa ci dice? Sai cosa dice alle forze dell'ordine? Noi non vi diamo i file di log. Noi non vi diamo i file di log per individuare i soggetti, anche se sono italiani. Allora qui il problema è una sollevazione sociale. Cioè, quindi c'è gente che convive con in questo. Però un conto è fare le indagini e scontrarsi di fronte a delle. Un altro conto è l'omertà. Cioè, secondo lei non c'è stato un problema di omertà all'interno della Chiesa su questo problema? Alcuni vescovi hanno gestito cioè male solo, casi, è solo una questione vescovi singolare, cioè alcune persone hanno sbagliato. Ma certo, ma per forza lo devo dire, perché non tutti i vescovi hanno agito con l'onestà, anzi molti vescovi hanno agito con determinazione e forza. Quindi cioè, il problema è come la stessa cosa, mi deve perdonare se faccio questo confronto, ma non è qui una difesa assolutamente, ma l'ordine dei psicologi, quando sono coinvolti i psicologi, fanno il loro giusto dovere? L'ordine dei medici fanno mi capisce cosa voglio dire? Sì, è un problema di caste, è un problema di corporazioni che tendono ad autodifendersi in un certo modo, no? Questo mi vuol dire. E però voglio dire, capisce che da un prete, da un sacerdote, per il ruolo che ricopre anche nella società, ci si attende un di più, non che tutti non debbano comportarsi. Allora, sono successi fatti gravissimi. Cioè, nessuno qui lo nega, né tantomeno figurarmi io. Quindi il problema è che nonostante tutto la Chiesa si sta muovendo. Ora si immagini, non si torna più indietro, cioè con questa nuova circolare, con le disposizioni, con un diritto canonico che è stato sempre chiaro. Io credo che oggi si può veramente iniziare a fare un lavoro di collaborazione, un lavoro anche di prevenzione, di informazione. Voi immaginate l'importanza che la Chiesa ha nel mondo delle parrocchie, degli oratori, quanto lavoro può fare con i genitori, lavoro può fare. Quindi, cioè, io credo, ma poi non dimentichiamo anche le bellissime opere di tanti sacerdoti con tutti i bambini di strada. Ma per carità, certo, ma questo non è che deve offuscare assolutamente. Io intanto la devo salutare, la devo ringraziare per essere stato grazie con noi. Don Fortunato Di Noto, presidente dell'associazione Meter, che si occupa appunto a tutela dell'infanzia per contrastare la pedofilia nel mondo, soprattutto nel mondo della rete internet. Noi, che dire, ci fermiamo e poi nel nostro sondaggio, che dovete votare su Radio24.it, parliamo delle elezioni amministrative. Parliamo di elezioni amministrative, il dopo voto. La domanda che vi poniamo è chiara, è questa, quella che si pongono tutti i giornali. Secondo voi, dopo questa scoppola, come qualcuno l'ha definita, al primo turno soprattutto a Milano per il centrodestra, è a rischio la tenuta di governo? Bossi e Berlusconi per il momento non parlano ufficialmente, ne discuteremo con due ospiti, Nunzia De Girolamo, deputata del PDL, e Luigi De Magistris, colui che ha ottenuto il pieno di voti a Napoli, andrà al ballottaggio a candidato sindaco tra poco dopo la pubblicità. Votate oppure intervenite in diretta 800 24 00 24 24 mattino. Allora, il dopo amministrative, questo è il tema del nostro sondaggio. La domanda che vi poniamo oggi è: secondo voi è a rischio la tenuta del governo? Ve lo chiediamo e lo chiediamo ai nostri ospiti. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. Detto che per il momento, per chi vota su Radio24.it, per il 62% la risposta è sì, cioè a rischio tenuta del governo. Ne vogliamo discutere con l'onorevole Nunzia De Girolamo, che saluto, del Popolo della Libertà. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno a lei e ascoltatori. Saluto anche Luigi De Magistris, in genere si dice europarlamentare, ma insomma adesso bisogna dire più candidato sindaco a Napoli, che ha anche ottenuto pieno di voti. Buongiorno De Magistris e ben ritrovato. Buongiorno a lei e ascoltatori. Allora, onorevole De Girolamo, io inizierei da lei perché certo ieri abbiamo sentito ufficialmente è finita in pareggio a parte Milano, questa è la diciamo la dichiarazione politica da parte del centrodestra, però guardi, tutti i giornali, tutti, anche il Foglio per esempio, si chiede oggi in prima pagina questa domanda: terrà il governo? Tutti parlano di una eventuale resa dei conti tra Bossi e Berlusconi, rinviata a un ballottaggio dovesse andare male, soprattutto il caso Milano. Che risponde lei? È davvero tutto a posto per quel che riguarda il governo? Ma io credo che le elezioni amministrative non influiscano sulla tenuta del governo, abbiamo superato anche momenti più difficili di questi, le alleanze non si mettono in discussione sui risultati che si hanno negli enti, dove ovviamente il consenso è basato su criteri differenti, anche radicamenti territoriali, hanno poca attinenza con il governo centrale, anche purtroppo vista questa legge elettorale. Ovviamente allora dovremmo fare lo stesso discorso anche per l'opposizione, l'affermazione di Italia dei Valori e soprattutto di De Magistris, che appunto saluto e che qui ospite come me, dovrebbe mettere in discussione anche l'alleanza allora che c'è all'opposizione fra PD e DV, il futuro fra di loro, oppure la presenza dei grillini. Ovviamente tutti dobbiamo riflettere sui risultati elettorali e il presidente Berlusconi, visto anche insomma quanto accaduto a Milano, dovrà fare un'attenta analisi sui toni tenuti in campagna elettorale, evidentemente sull'organizzazione in generale del partito e del modo con cui fino ad oggi abbiamo affrontato alcune questioni. Però lei non potrà negare, come fanno tutti i commentatori, che Milano non è una città come le altre, nel senso è la città dove Silvio Berlusconi ha sempre pescato un bacino elettorale molto ampio. In questo caso per esempio pesa anche il fatto che le preferenze date al premier, che era capolista, sono dimezzate rispetto a 5 anni fa. Tutto questo davvero non è un segnale politico, secondo lei, che può influire? Ma non credo che possa influire sulle alleanze, sicuramente è un dato sul quale discutere. Io onestamente, ma è una valutazione assolutamente di carattere personale, non avrei alzato così il tiro su Milano, considerato che la Moratti alle scorse elezioni non ha vinto al primo turno ma al ballottaggio. In ogni caso è una scelta di partito, come sempre ci si adegua, e la scelta a Milano è stata quella di alzare l'attenzione molto su quel comune dove effettivamente le affermazioni nel passato del premier erano forti, sì. Il calo dovuto anche a tanta battaglia mediatica che abbiamo vissuto, sicuramente lo scossone della divisione in maggioranza, confini, le liti, sono cose che non pagano in politica. Quindi secondo me dobbiamo riflettere, rimboccarci le maniche e guardare a domani in maniera differente. Sì, anche sulla questione, questione della campagna elettorale, che infatti in effetti è molto criticata nei toni, e anche su questo c'è un dibattito all'interno del Popolo della Libertà. Vorrei sentire Luigi De Magistris, senta, poi parliamo di Napoli ovviamente, però mi lasci fare uno sguardo, anche perché oggi il Corriere accomuna la sua storia a quella di Pisapia. In un articolo di Goffredo Buccini c'è un'intera pagina sul Corriere della Sera: il garantista, che è Pisapia, e il Masaniello giustizialista, che sarebbe lei, i gemelli diversi dell'altra sinistra. È finita, secondo lei, o inizia il declino del berlusconismo e del governo con queste tornate elettorali? Voglio dire due cose. Non c'è dubbio che a Milano il peso è forte. Berlusconi, che ha caricato su Milano, e il risultato accelera il tramonto di Berlusconi, così come anche a Napoli, perché non ci dimentichiamo che nel 2008 Berlusconi, venendo a fare propaganda sui rifiuti, dicendo che in pochi giorni avrebbe risolto il problema dei rifiuti, cosa che ha fatto anche in questi giorni, vinse le elezioni nel 2008. Però attenzione, perché a Napoli è successo qualcosa di oltre, non è stato il pro e contro Berlusconi. A Napoli vorrei sottolineare che il risultato che abbiamo avuto è enorme, un movimento popolare, i partiti che mi sostenevano arrivavano al 6%, io sono arrivato al 28%, ed è un movimento non solo contro un certo modo di intendere il potere, quindi Berlusconi, ma non solo Berlusconi, perché in Campania è il partito unico della spesa pubblica, dove dentro ci sono stati pezzi importanti del centro-sinistra, ma è un movimento per per una politica dell'alternativa dal basso, questa è una grande novità, mentre a Milano abbiamo centrosinistra contro centrodestra, a Napoli c'è stata una grandissima partecipazione dal basso, movimenti, associazioni, comitati. Questo credo che sia un risultato che deve far riflettere, e quindi sicuramente si accelera la fine di Berlusconi a Milano, politica ovviamente, Milano come a Napoli, però vorrei sottolineare che a Napoli, come diceva anche la De Girolamo, c'è qualcosa di più di un referendum su Berlusconi. Sì, ma poi del successo di Napoli adesso ne parliamo. Tra l'altro, a proposito, prima però volevo chiedere all'onorevole De Girolamo questo. Si è detto nella campagna elettorale, che lei ha già criticato, insomma, coi toni in alcune parti sbagliate, Pisapia è un estremista, se arriva a Pisapia tornano i comunisti. Adesso anche su De Magistris, su Napoli, si dice è un giustizialista, è un forcaiolo, eccetera. Secondo lei è giusto puntare su questo? Cioè De Magistris e Pisapia sono due estremisti che non possono guidare due città importanti, oppure è sbagliato? No, allora, ovviamente la mia posizione è assolutamente distante, politica, ideologica, da De Magistris e da Pisapia, pertanto è chiaro che se fossi un cittadino di Milano o di Napoli non li voterei. Detto questo, sicuramente i toni esasperati non pagano, perché la gente è stanca di un certo modo di fare politica, ma questa è una critica a tutti, perché penso che i toni in questa campagna elettorale li abbiano alzati un po' tutti. Bisogna molto più discutere di programmi e far capire alla gente come si approccia la politica oggi alla gestione amministrativa, in vista anche del federalismo e soprattutto al sud delle difficoltà che ci saranno. Pertanto uno deve scegliere la persona più capace di amministrare quella realtà. Alzare come sempre i toni e puntare tutto sul sì a Berlusconi e no a Berlusconi è un grande errore, perché per quanto Berlusconi ci possa mettere la faccia tanto a Milano quanto a Napoli, poi saranno i candidati sindaci che dovranno andare a amministrare quella realtà e la squadra a supporto. Ma guarda che però è un grande errore, però il Premier ha sempre puntato su questo, cioè sulla personalizzazione del voto, e gli italiani per tanti anni l'hanno sempre premiato, insomma, proprio per questo, no? Sì, sicuramente il Premier è stato sempre premiato, e non possiamo negare che oggi il partito va riorganizzato visti questi dati. In ogni caso, io ritengo che in questa fase politica, dove per tanti motivi ci sono stati processi mediatici nei confronti del Premier, abbiamo vissuto momenti di grande difficoltà, io non avrei alzato così. Non avrebbe alzato i toni. Io personalmente. Sì, no, però, ma è chiaro, ma è una posizione che non è neanche tanto. Non è poco diffusa all'interno del suo partito. De Magistris, se veniamo a Napoli, intanto io le chiedo: lei ha detto, io non sono il sindaco dell'Italia dei Valori, non sono il sindaco che chiede apparentemente a nessuno al secondo turno, però lei deve recuperare, se vuole sperare di vincere, 10 punti percentuali rispetto a Gianni Lettieri, che è avanti di 10 punti. Cioè, come è possibile non dire a quelli che hanno votato PD votate me? Ma io farò come ho fatto in questa prima parte della campagna elettorale, ho detto dall'inizio sindaco per Napoli, non mi sento appunto il sindaco di una parte del centro-sinistra, e continuerò a fare, sto facendo in queste ore, quello che ho fatto nella prima parte, cioè mi rivolgo con i programmi, con le idee, con una svolta di governo a tutti i cittadini, quindi non solo a quelli del centro-sinistra. Tra l'altro a Napoli, ricordiamo, c'è stato nei miei confronti un voto disgiunto enorme, io ho preso voti dal centro, dai liberali e anche da destra, da chi da destra non si riconosce il Lettieri. Napoli in questo momento ha bisogno, lo diciamo prima, di cose concrete. Napoli bisogna riempire le buche delle strade, risolvere la spazzatura, ripartire con la cultura, con gli asili nido, con le politiche sociali. Di ideologia c'è poco. Questo c'è però bisogno... lo dicono un po' tutti i candidati. Beh, Napoli, guardi, bisogna conoscerla bene la realtà di Napoli. Napoli c'è bisogno di una svolta, si è chiuso un ciclo che era quello del bassolinismo dopo 20 anni, e la parte maggioritaria, secondo me, di Napoli non vuole essere governata dal prestanome politico di Nicola Cosentino, che è Gianni Lettieri. Questo si avverte in città, c'è grande passione e grande entusiasmo, io preferisco rivolgermi in questo modo. Poi gli accordi si fanno sul programma, sulla qualità della giunta, apparentemente formali, a Napoli siamo in un momento difficilissimo. E poi giusto una parentesi, io non mi sento, mi può anche piacere il riferimento, diciamo, a Masaniello, perché a Napoli c'è stata una rivoluzione pacifica e forte. Non mi sento un giustizialista, devo dire la verità, mi sento invece una persona fermamente ancorata alla giustizia, ai diritti e alla legalità in senso costituzionale. Però un po' Masaniello, sì, l'ho letto anche su un'intervista al Messaggero, dicevo, ma Masaniello, se inteso come persona, chiariamolo, nel 2011, perché Masaniello appartiene a mezzo a 500 anni, se lo intendiamo come persona che diventa punto di riferimento di una indignazione sociale, che per evitare che ricada in conflitto invece diventa mobilitazione, Napoli è una città che ha bisogno di qualcuno che dà l'esempio di etica pubblica, il resto della città non è come dice Borghezio, che il problema sono i napoletani, il problema sono quelli che hanno amministrato Napoli in questi anni. Quindi da questo punto di vista io mi sono fatto carico di questo e sono contento ovviamente che questo punto di riferimento venga colto. Speriamo di vincere ovviamente fra 13 giorni. Certo sì, tra poco, adesso il traffico e poi rientriamo. De Magistris, 1620 l'ho controllato anch'io intanto che parlavo, non Masaniello, no 1500, sennò poi dicono che non sa la storia di Napoli. 1620 è nato. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Nel frattempo è sceso di un punto percentuale, 61%. Chi pensa che ci possa essere problemi per la tenuta del governo? Questo è il nostro sondaggio online su radio24.it. Vorrei sentire che ne pensa. Ci ha chiamato l'800 24 0024. Maria da Brindisi, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo dire che secondo il mio parere non cade il governo, perché a Bossi non conviene. Anche lui è calato in questa. Sempre che Milano rimanga a Pisapia, cioè noi stiamo ragionando sempre che a Milano vinca Pisapia, cioè se dovesse vincere la Moratti, figurarsi, insomma. E Bossi certamente fa il suo interesse, non gli conviene far cadere il governo, perché da solo non ce la farebbe ad avere tante poltrone, tanti ministeri e tanto. Quindi terrà ancora, finché gli conviene, stretto Berlusconi, ricattandolo ancora di più, pretendendo sempre di più. Questa è la sua analisi. Grazie Maria. Voglio andare a Venezia, dalla provincia di Venezia per la verità. Stefano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, dottor Milan. Saluto il signor De Magistris e mi complimento con lui. Allora, io ho fatto una riflessione, diciamo così, praticamente leggo dai giornali e poi sentendo anche il sindaco Moratti che dice che hanno sbagliato strategia alzando troppo i toni e quant'altro, che poi se avessero già vinto questo non l'avrebbero detto e andava bene. Beh, anche così. Perché se uno vince vuol dire che l'ha azzeccata la strategia. Esatto. Però insomma era la loro strategia, quella vincente secondo loro. Però dai giornali si leggono appunto il contrario in questi giorni, che anzi i toni sono molto più alti, cioè iniziano già a bombardare. E poi anche un'altra cosa, che dicono, il signor La Russa ha detto, ma se Berlusconi non si fosse speso così tanto, sì. probabilmente prendavamo meno. Non è detto, perché secondo me a Milano le persone, non la gente, le persone hanno capito che non potevano più vivere così. E poi devono tener conto che magari non si sente mai questo, diciamo così, mio pensiero, è che ogni anno, ogni due anni, ogni votazione che c'è, ci sono persone che comunque non votano più perché hanno fatto la loro. E poi ci sono persone che ogni anno, giovani, che entrano a votare. Stefano, voto. Questa è un'analisi molto completa. Comunque quello che mi interessa, lei dice, insomma, è stato criticato anche, critica anche lei l'alzare i toni in questa campagna elettorale. De Magistris, Mastella ha corretto il tiro, perché prima aveva detto se vince De Magistris mi suicido a Napoli. Ma io ho detto in campagna elettorale, parlando di cose concrete, che a differenza di quello che ha fatto Caldoro al Presidente della Regione, la Iervolino sindaco, rafforzerò molto le politiche sociali, quindi con la rinascita di Napoli io conto di recuperare anche Mastella, quindi evitiamo gesti traumatici in questa città che ha bisogno di sorridere e non più di essere depressa, quindi una svolta anche da questo punto di vista. Volevo ricordare che la seconda rivoluzione partenopea importante è del 1799, finita male, però partita dall'Istituto Italiano degli Studi Filosofici di Gerardo Marotta. Insomma, quindi evitiamo momenti traumatici, atti traumatici di Mastella. Ma ha già detto lui che non che una scherza. Una città che deve ripartire. Una battuta ha detto, battuta. Non si suiciderà se mai dovesse vincere De Magistris. Senta, invece De Magistris, un'altra cosa è sulla questione di Pasquino, il terzo polo. Neanche al terzo polo chiederà voti. Oggi il terzo polo scioglierà la riserva. Pasquino ieri ai nostri microfoni ha detto: beh, a De Magistris da rettore darei un bel 28 su 30 come esame superato, a Lettieri come campagna elettorale un bel 3 su 30, cioè un disastro. Ma io farò come ho detto prima, il dialogo anche nei confronti dei moderati, dei liberali è molto forte, tant'è che nel mio programma c'è la rottura politica del partito unico della spesa pubblica, dell'oligopolio e tanta libertà, liberalità, libera concorrenza. di Pasquino ho detto in campagna elettorale, quindi non adesso, che ho apprezzato molto lo stile, è una persona con la quale si può dialogare bene e credo che sia un interlocutore anche per il futuro di questa città. Io vorrei, onorevole De Girolamo, lei è anche campana, insomma è beneventana e quindi sulla situazione Napoli sicuramente avrà un occhio di riguardo. Senta, vi ha stupito questa vittoria? Perché c'è stato sicuramente il tracollo del PD e la fine appunto del bassolinismo, gli elettori sono stati molto chiari, però vi ha stupito questo exploit elettorale di De Magistris e vi preoccupa per il ballottaggio? Allora, io innanzitutto ho ascoltato De Magistris e volevo fare una battuta su Mastella, gli consiglio di apparentarsi perché così non sarà complice insomma di un eventuale suicidio, anche se penso che Mastella si sia suicidato da solo nel momento in cui si è candidato a Napoli, quindi poca responsabilità. Non credo negli uomini sul comando, cioè l'atteggiamento oggi dei Magistris che rifiuta l'apparentamento con il Partito Democratico e con gli altri, ho visto molto poco anche di Pietro, quindi anche ieri sera l'ho ascoltato in TV, non mi sembrava particolarmente coinvolto da questa campagna elettorale, mi fa pensare che c'è questo atteggiamento di distanza un po' da tutti di De Magistris, che ovviamente anche prima ha sottolineato Lettieri, Cosentino, sempre le stesse cose, che un po' di populismo poi l'ho anche ascoltato in questa campagna elettorale, e non, ieri sera sempre ascoltando e guardando una trasmissione in Rai mi sono meravigliata quando lui ha affermato non aprirò inceneritori, discariche e la linea telefonica sul cellulare ha qualche problema. De Magistris, risponda su questo, insomma, effettivamente lei è uno che i toni non è che li tiene bassi, visto che si è parlato molto di campagna elettorale e sui toni. Io ho parlato molto di cose concrete, ho detto no agli inceneritori, alle discariche, sia alla raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio cittadino e gli impianti di compostaggio. Sugli apparentamenti ho detto una cosa diversa, no agli apparentamenti formali, sia agli accordi sostanziali di qualità, sui programmi, sulla giunta, sul tipo di città che si vuole, una cosa diversa, non mi interessano i bollini in questa fase perché Napoli è una città che ha bisogno di una svolta, ecco perché ho detto pure che anche all'interno di Italia dei Valori io non mi sento affatto il sindaco di Italia dei Valori, ma è un progetto più grande quello che stiamo portando avanti a Napoli, questa è la novità napoletana, come dire. E per concludere, onorevole De Girolamo, abbiamo recuperato la linea, ha avuto qualche problema col cellulare alla fine, però dice lei accusa di populismo, De Magistris dice no, io no agli apparentamenti, però va bene se dobbiamo fare degli accordi, cioè non vuole essere identificato come il sindaco di IDVPD, ecco questo ci sta dicendo, no? Ma al di là del collasso del PD a Napoli che è evidente, nel momento in cui però lui non fa apparentamenti formali che penalizzano ovviamente i consiglieri comunali perché le elezioni amministrative sono diverse e quindi questo dovrà dirgli ai consiglieri comunali che ambiscono ad entrare al comune, legittima ambizione per chi fa politica. Quando parla di un accordo formale, quindi sta dicendo, avendo alzato i toni contro Cosentino e contro di noi come sempre, che accetta i voti di Bassolino e che accetta i voti del terzo polo che è alleato di Cosentino? Non lo so, De Magistris risponda, il lapidario. A parte che i toni non li ho alzati io, perché i toni contro di me non sono mai stati teneri. Dica, poi io non è questione di Bassolino e di altri, io parlo come ho sempre fatto ai cittadini. Ho capito, però De Magistris, i voti sono i numeri sono numeri, no, cioè, allora, i voti dovrà chiederli, sennò esatto, li chiedo ai cittadini. Guardi, ai cittadini che magari hanno votato PD al primo turno. Ma ci mancherebbe altro, mica hanno la rogna. Io dico una cosa diversa, mentre Lettieri si è fatto accompagnare in tutta la campagna da ministri e sottosegretari, io ho fatto 25 comizi e vado tra la gente, questa è la differenza, io chiedo i voti alla gente e non li chiedo diciamo agli apparati partitocratici, questa è la differenza. Va bene, ci dobbiamo fermare, grazie a Luigi De Magistris e all'onorevole Nunzia De Girolamo del PDL per essere stati con noi, con Filippo Reggi in regia, con Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione, la linea va a Deborah Rosciani, questa settimana ripeto Oscar Giannini non c'è, ritorna la prossima, Deborah Rosciani, 9 in punto, noi ci sentiamo domattina alle 7:20.